Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Viaggio verso l'economia sociale, eccoci, buongiorno a tutti. Questa puntata a bordo del ferry boat ci sono personaggi veramente singolari. Sarei tentato, se non avessi un'accezione negativa, di definirli pezzi da 90 della scienza, della fantascienza e della finanza. In realtà oggi parliamo di geni che hanno una visione del lavoro, della professione, dell'azienda e del mercato che forse non è così frequente riscontrare sui nostri media. In realtà si parla spesso dell'Italia, del lavoro, delle aziende nell'aspetto, diciamo, più critico di questo termine, ma la situazione non è sempre esattamente così grigia. Perché limitarsi alla sola energia? Perché non puntare all'intera economia? L'importante è che la parola d'ordine sia rinnovabile. È un po' duro di comprendonio, ha bisogno di tempo per capire la domanda, ma alla fine risponde: ecco il mio amico computer. La nuova Italia? Non diamola per persa. Basta un poco di volti nuovi e l'eccellenza va su. A bordo abbiamo tre personaggi che hanno trovato un autore, continuiamo a stare sopra le righe come nostra abitudine anche nei sommari, tre personaggi, uno del mondo della natura, uno del mondo di internet e uno del mondo della finanza, che hanno vinto la loro battaglia personale di posizionamento nel mercato del lavoro, ma soprattutto l'hanno vinta in prospettiva, cioè guardano avanti, sono un'espressione italiana della capacità di interpretare i nuovi mercati e i nuovi business. Ne abbiamo proprio bisogno di questa visione. Cominciamo con Eric Ezechieli, che leggere di lui è troppo complicato e troppo lungo. Mi piace sottolineare, Eric, buongiorno. Buongiorno. Che tu sei un ricercatore sugli equilibri uomo-natura-tecnologia. Questa è la frase con cui ti presenti, che non è poco. Ricercatore forse rimane a un livello un po' troppo teorico, l'approccio è più quello di un imprenditore, imprenditoriale, partire dalle idee per avviare delle trasformazioni. Ecco Eric, tu predichi il cambiamento profondo anche in questa veste di presidente di un'associazione naturalista e parli di economia rinnovabile. Che cos'è l'economia rinnovabile? Sì, l'economia rinnovabile è un modo di condurre le attività umane che non crei, che non causi i nostri problemi del futuro. Se noi guardiamo adesso, siamo praticamente immersi in una marea di problemi che sono gli effetti collaterali delle soluzioni che abbiamo applicato ieri. E ci stiamo accorgendo che così non può più funzionare. Quindi Natural Step sono 20 anni che come non profit si occupa di questi temi e li applica, quindi sottolineo l'aspetto assolutamente pragmatico del lavoro che facciamo come Natural Step. E che ha avuto, mi pare di ricordare, una bella palestra proprio in una delle aziende più importanti, forse più riconoscibili in assoluto, che è IKEA. Cioè voi avete avviato la vostra attività in qualche modo con IKEA. Natural Step è nata come prima una campagna proprio di creazione di consenso nella comunità scientifica. Cosa vuol dire la sostenibilità e come la traduciamo in pratica? E la prima azienda al mondo che ci chiese di aiutarli in questo senso fu IKEA, e parlo di 20 anni fa, nel 1990. E loro hanno avuto un bel vantaggio dallo scegliere questa strada. Quindi assoluta coerenza con obiettivi di tipo economico, quando si mettono insieme con quelli di tipo sociale e ambientale. E veniamo un attimo, svegliamo un attimo le carte su queste visioni geniali di cui oggi vogliamo parlare. Eric Ezechieli è uno dei 1300 soggetti che hanno chiesto di frequentare una scuola molto particolare, un master molto particolare, ovviamente americano, si chiama Singularity University, e vi facciamo ascoltare la presentazione di questa università proprio dalla voce di Ray Kurzweil e Peter Diamandis, che sono rispettivamente rettore e vice rettore e cofondatori di questa incredibile università. When I read the singularity is near, quando ho letto la singolarità è vicina e visto quali fossero le discipline chiave, Ciò che ho pensato è stato, mio Dio, questa materia sarebbe perfetta per un'università interdisciplinare. Non c'è alcun altro istituto che studia la crescita esponenziale dell'informatica e come possa risolvere i maggiori problemi del pianeta. Abbiamo organizzato la conferenza di apertura presso il centro di ricerca Ames della NASA, nella Silicon Valley, California, e abbiamo riunito 50 intellettuali di spicco per parlare dell'Università della Singolarità, un luogo dove si sarebbe ritrovato il top dei laureati e degli studenti universitari ogni estate per 9 settimane di studio, tra discipline e culture diverse, oltre i confini delle nazioni. Oggetto: la crescita esponenziale delle tecnologie. Insomma, abbiamo cercato di creare un luogo dove i maggiori problemi del pianeta, come la fame, la povertà, i cambiamenti climatici, l'energia, potrebbero essere affrontati da questo punto di partenza interdisciplinare. L'obiettivo dell'Università della Singolarità è quello di riunire in un luogo solo i maggiori esperti nei diversi campi dell'informatica e i migliori studenti del mondo. Entrambi si aiuteranno a vicenda e in questo modo perseguiremo una più profonda conoscenza di come potremo risolvere i principali problemi del mondo. Da questa presentazione abbiamo capito due cose. La prima è che cosa vuol dire ricercatore sugli equilibri uomo-natura-tecnologia di cui parlavamo. La seconda, che Eric Ezechieli è uno degli studenti più preparati del mondo. La terza, che a Eric Ezechieli chiediamo di salvarlo questo mondo, anche grazie agli studi che farai alla Singularity University. È corretto quello che ho detto? A parte il fatto che sei più bravo, quello magari lascialo dire a noi, vabbè, lascialo dire ad altri. Grazie, la prospettiva di salvare il mondo è talmente grossa da essere quasi esilarante, però a parte gli scherzi, alla Singularity credo che ci sia un crogiolo, un'opportunità di apprendimento e di applicazione con un'ottica imprenditoriale che sia veramente unica. Quindi l'idea è quella di sfornare delle soluzioni. Pensate internet stesso piuttosto che il microcredito, cioè si parte da un'idea ma poi la si applica in pratica. Quindi non, l'idea è di andare assolutamente su un'applicazione pragmatica delle ricerche, delle discipline che vengono affrontate là. Capiamo che non è facile per chi ci ascolta capire, cioè interpretare esattamente che cos'è la Singularity University. Certo, avete sentito i più grandi insegnanti, i più studenti più importanti, 1300 le domande, dei costi altissimi di partecipazione. Beh, ci fa piacere sottolineare con l'aiuto di Eric che su 81 ammessi dei 1300 di partenza, 7 sono italiani. Il 10% dei migliori studenti del mondo, se vogliamo, come dire, forzare statisticamente questo dato, sono italiani. Il team for Italy, come l'hai chiamato tu Eric, è un bel segnale in un momento in cui continuiamo, devo dire, l'autolesionismo italiano sta trionfando. Sì, una precisazione, le domande quest'anno erano 1600, non 1300. Tanto meglio, ancora più alte. Questi 7 italiani, secondo me, sono una piccola parte della genialità italiana che c'è nel mondo, perché in realtà poi ci sono molte altre persone che sono attive e con cui ci stiamo connettendo, quindi noi siamo 7, ma contiamo veramente di creare una massa critica e di collegare tra loro italiani che non vedono più neanche il confine tra Italia e il resto del mondo. Si concepisce un unico scenario dove tutti siamo parte di una soluzione. Perché voi parlate, studiate e conoscerete forse prima di altri il futuro, e il futuro ovviamente non può essere limitato geograficamente. Eric, in bocca al lupo e voglio dire studia bene, visto che contiamo su di te, sia noi che i nostri figli. Grazie. Grazie. E a proposito di genialità italiana, vedete, oggi Ferry Bot ci fa fare un viaggio tutto sommato, come dire, divertente e anche positivo, perché per una volta non si affrontano problemi ma si celebrano eccellenze. Una di queste eccellenze fa un mestiere un po' particolare, si chiama web semantico, e ve lo facciamo però introdurre da un presentatore del tutto speciale, si chiama Silvana. Ciao Enzo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Il nostro prossimo ospite è Massimo Marchiori, professore di Reiki e tecnologie web all'Università di Padova e visiting professor al Massachusetts Institute of Technology. Ha creato il concetto di iperinformazione e il motore Hypersearch. Idee che hanno portato alla creazione di Google. Silvana, come avete capito, non esiste, è una macchina, è un computer parlante, così come il web semantico si può molto, in maniera molto semplice, definire come materia inerente a quelli che saranno i computer parlanti, vero Massimo Marchiori? Sì, buongiorno a tutti, anzitutto mi veniva da pensare, ascoltando la voce di Silvana, a quello che penseranno di noi le persone delle prossime generazioni. Cioè, tra 100 anni sentire un computer parlare in questo modo, che ora insomma ci sembra una cosa relativamente progredita, sembrerà come un atto veramente primitivo, ecco. Perché si sentono le differenze dei toni, gli accenti, dici, no? Cioè, sì, non è fluido, vero? Dire, noi ora siamo all'inizio di una nuova era, in un certo senso. C'è stata la rivoluzione industriale, quella ha cambiato il mondo e lo sappiamo, noi ora vediamo il mondo prima della rivoluzione industriale come un mondo, non dico primitivo, ma poco ci manca. E lo stesso succederà con quelli che saranno pienamente dentro la nuova rivoluzione tecnologica, perché ora siamo all'inizio di questa rivoluzione tecnologica, ma non siamo ancora arrivati al suo pieno compimento. Ti faccio una domanda, come dire, non prevedibile forse per un professore, ma certamente la tua angolatura di visuale è adatta a tentare una risposta. Noi siamo totalmente, noi Italia, noi italiani, voi esperti, siete totalmente fuori dal mercato internazionale che conta sull'evoluzione del digitale, su questo futuro tecnologico? No, nel senso, è vero che c'è un po', il problema principale è che l'università, la ricerca è un po' una torre d'avorio e ci vorrebbe qualcuno che mettesse in contatto questi due mondi. All'estero succede, all'estero non c'è la ricerca fine a se stessa, oppure le università o gli ambienti accademici staccati. In Italia meno, e questo è un problema di sistema, nel senso che ci sono tantissime persone con tante idee interessanti, dall'altro lato anche tanti imprenditori disposti a rischiare, magari, solo che non ci sono punti di contatto. Questo di contatto. È un peccato mortale, soprattutto perché in ambienti come quello di internet e del web basta poco, cioè non servono così tante risorse, basta veramente un'idea e pochissime risorse per cambiare il mondo, per cui in questa era tecnologica è veramente un'opportunità da riconsiderare, insomma si dovrebbe veramente creare questo ponte. Grazie Massimo, buon lavoro a tu e il tuo web semantico, aspettiamo con impazienza i computer che ci aiuteranno a risolvere i problemi, a presto. Grazie a voi. In parte già li risolvono, in parte già li creano, ed è il caso di Simona Paravani, che a proposito di eccellenze è una delle stelle del firmamento internazionale italiano. Simona lavora in una banca molto importante, la HSBC, e a proposito appunto di virtualità è una protagonista di primo piano del mondo della finanza, è così Simona? Global Investment Strategist di appunto HSBC, e come tale mi occupo di politiche economiche nonché finanziarie a livello globale, ed ho quindi una diciamo così un punto di vista privilegiato dal quale osservare e mettere in prospettiva il talento italiano che incontro sia in Italia che fuori. Non è un momento facilissimo per voi che operate nel mondo della finanza, perché, come dire, le turbolenze sono insistenti e continue. Beh, va detto che le problematiche che affrontiamo oggi, non solo nell'ambito della finanza, ma in senso molto più ampio, che riguardano ad esempio i cambiamenti climatici, per non parlare di altri problemi, credo che ci siano proprio problematiche molto complesse che richiedono un'unione di talenti di diverse discipline per portare a casa i risultati, che è un po' quello di cui vogliamo parlare oggi, no? Certo. Simona Paravani, in realtà non abbiamo contattata per parlarci di banche, visto che fortunatamente o sfortunatamente se ne parla fin troppo, ma nei ritagli di tempo, non so quali siano, devono essere modesti, ha messo in rete cervellinfuga.com e c'è nella tua attività, nella tua vita di tutti i giorni, tutto sommato un minimo di nostalgia per la vita italiana, per il paese da cui provieni e dove forse torneresti volentieri. Beh, sì, io sono molto attaccata al mio paese, soprattutto per quanto riguarda la creatività e l'estro che ci caratterizzano. è interessante, io ho vissuto in paesi molto diversi, dalla Svizzera agli Stati Uniti, ora vivo a Londra, e ogni volta che incontro molti dei miei connazionali che lavorino in finanza, in ricerca o in altri campi, ci accomuna questo forte calore umano e questa forte creatività che credo sia uno dei punti vincenti del Made in Italy e che è una delle cose che mi manca di più. Abbiamo sottolineato, come da tua precedente intervista, un elenco che un po', devo dire la verità, mi ha sorpreso. Tu dici moda, auto da corsa e calcio sono tre elementi forse i più eccellenti in assoluto della storia di questo paese, così? Beh, quello a cui ti riferisci è un blog che è apparso su Cervelli in Fuga, che parlava proprio del che cosa farebbe ritornare i cosiddetti cervelli in fuga, e di quello di cui noi parlavamo in quel contesto era la necessità di far emergere poli d'eccellenza, e in Italia già alcuni poli d'eccellenza li abbiamo, perché sicuramente nell'ambito della moda l'Italia è considerata un polo di eccellenza. Però per poter capire l'importanza dei poli di eccellenza occorre un pochino, secondo me, contestualizzare, se mi permetti, il fenomeno dei cervelli in fuga. E se possibile vorrei cominciare con lo sfatare un paio di miti che ci sono in materia di cervelli in fuga. Infatti, quando si parla di cervelli in fuga c'è una certa tendenza a parlare soprattutto del campo della ricerca, ma come mostra la mia stessa esperienza, in realtà il fenomeno è molto più ampio e tocca campi molto diversi. Il secondo dato importante è che si dice spesso che gli italiani vanno via perché non si trova un posto di lavoro. In realtà credo che il problema sia trovare il posto di lavoro. Qual è un po' la differenza fra un posto di lavoro e il posto di lavoro? Un posto di lavoro è genericamente quello che serve per sbarcare un lunario, mentre il posto di lavoro è veramente quella combinazione che ti permette di essere felice e appagato in quello che fai. Ed è un po', si sente dal piglio del tono in cui hai, come dire, semplificato il percorso dei cervelli in fuga con chi stiamo parlando. Simona, dici anche, hai detto anche che uno dei grandi mali, ti chiedo di essere brevissima perché dobbiamo chiudere, è sicuramente non avere la garanzia che si possa lavorare per meriti e non per contatto, diciamo così. Sì, infatti è importante per le persone poter lavorare con altre persone di forte calibro, e per questo è importante creare poli d'eccellenza, perché ogni politica che miri semplicemente a far rientrare quella che è la stella unica, la star, non risolve il problema. Per stare in metafora, occorre veramente creare vere e proprie costellazioni. Bocca al lupo, grazie e buon lavoro. Mi raccomando, un occhio sempre alla povera Italia, perché ne abbiamo bisogno lassù da dove ci guardi. Grazie Simona. Grazie a voi. E dopo aver ospitato a bordo tre eccellenze di questo calibro, di visioni, avete sentito, no? La visione quella naturalista, la visione quella del futuro digitale, e dopo una visione finanziaria, ma soprattutto anche di sistema, ecco che abbiamo bisogno, e lo facciamo con Danilo Zatta, che ha scritto Drink, gestire l'azienda con strategia e visione, abbiamo bisogno di fare il punto. Buongiorno dottor Zatta. Buongiorno. In questo libro ci piace prendere alcuni spunti, perché è interessante, ma chiaramente non possiamo affrontare tutti gli argomenti. La prima è che lei conferma tutto sommato quello che noi abbiamo detto con queste tre testimonianze: nel nostro paese c'è un'assenza di visione. Assolutamente sì. Quello che vediamo interagendo con diversi manager è che manca la visione. Più che agire, i manager oggi tendono a reagire, manca un orientamento di lungo periodo. Ed è per questo che lei ha scritto questo libro, dove dice, appunto, il sottotitolo è gestire l'azienda con strategia e visione. E quindi la visione è un punto chiave della strategia, diciamo, di rinascita del sistema economico del nostro paese. Ma la visione come si alimenta? Chi è che alimenta la visione? L'università, l'esperienza del lavoro, la lettura dei libri come il suo? L'alimentazione della visione, in realtà, se la vediamo in maniera tipica dal punto di vista del management, è stata alimentata da una serie di mode a partire dagli anni 90. Mode che si sono susseguite con il reengineering, la qualità totale, l'outsourcing, il benchmarking, tutte soluzioni che prospettavano la soluzione omnicomprensiva capace di risolvere tutti i problemi. In realtà poi, se vediamo come si sono manifestate queste mode, abbiamo visto che sono state spesso mode inutili, fuorvianti, di breve durata. Pensiamo ad esempio a quella che era IBM negli anni 80, l'esempio acclamato di vicinanza al cliente, che poi dopo pochi anni è caduta in una crisi profonda con il licenziamento di migliaia di dipendenti. Oppure negli anni 90 quelle che erano le aziende giapponesi, le icone della qualità totale. Tutta qualità totale, sì, si è visto, no? Con Toyota per esempio. Esatto, che oggi sappiamo tutti che fine ha fatto, piuttosto che i giapponesi che ora sono in mani di aziende europee. E quindi c'è stato un susseguirsi di mode che poi si è dimostrato essere in realtà solo un fenomeno di breve periodo. Fuoco di paglia. Lei dice una cosa che ha ribadito, lei scrive, ha ribadito anche poco fa, che se ci può essere definito un male, il male diciamo maggiore, questa incapacità di agire, ma solo di reagire. Mi sembra che rappresenti molto bene lo stato anche, non lo so, forse anche politico in questo paese, nel momento che stiamo vivendo. Assolutamente sì, è una paralisi che ritroviamo in diverse forme. Basti pensare a diverse imprese fallite o in perenne perdita o vendute prima di essere liquidate. Qui ci sono tanti nomi blasonati, da Mariella Burani a Carrozzerie Bertone, Viaggi del Ventaglio, all'Italia, tutte aziende che evidentemente non hanno avuto una visione, hanno avuto sicuramente una serie di papers interni con su scritto strategia e visione, però alla resa dei conti abbiamo visto che fine hanno fatto. Grazie Danilo Zatta, purtroppo il tempo non ci consente di approfondire, suggeriamo ai nostri ascoltatori di comprare e leggere Think, gestire l'azienda con strategia e visione, l'editore peraltro è Il Sole 24 Ore, quindi giochiamo in casa, complimenti per il suo lavoro e a presto Danilo Zatta. Grazie. Noi il nostro viaggio di ferribotto con Enzo Argante si avvia ad esaurimento, vi ricordiamo, ci teniamo a ricordarvi che dal 13 al 17 maggio Radio 24 sposta la redazione e i conduttori al Salone del Libro di Torino, dove c'è uno spazio Radio 24, Padiglione 2, dove per 5 giorni ci saranno programmi in diretta, produzioni speciali, eventi, insomma si celebra come giusto e come doveroso la grande festa del libro lì al Salone di Torino. Abbiamo concluso anche per questa settimana, in redazione è la preziosa Anita Panizza e il prezioso Carmelo Lauricella in regia, grazie a tutti, alla prossima puntata, ricordatevi che si può ascoltare Ferribot sul sito di radio24.it.